Se c'è qualcosa di cui tu puoi stare certo, è che non c'è niente di certo in questo mondo. Non mi importa del sole, non mi importa del dolore, non mi importa se non riesco a ricordare, ma da qualche parte l'ho incontrata. Se c'è qualcosa di cui tu puoi stare certo, è che non c'è niente di certo in questo. È andata via notte e giorno, quante ore al calare del sole, ce ne so di libri, sogni, gambe e mani, non ricordo altre storie, non un luogo, libri, non importa il sesso, birre, moto, auto, quanti amici, non mi resta nulla. Se c'è qualcosa di cui tu puoi stare certo, è che non c'è niente di certo in questo mondo. Hai fatto perdere qualcosa di te stesso, ma sei poi sicuro che sia stato meglio. Non ti porta il sole, non ti porta dell'amore, non ti porta se non riesci neanche a ricordare dove cazzo l'hai incontrata. Se c'è qualcosa di cui tu puoi stare certo, e non c'è niente di certo in questo mondo. Qualcosa di te stesso, ma sei sicuro che sia stato me, non importa.